giorno d'autunno, foglie secche lungo i viali. Stormi d'uccelli disegnano nel cielo geometrie, mentre volano lontani al di là del mare, mentre vanno via lontano dall'altra parte del mare. Il dio della valle ha donato agli animali un sonno profondo. Si sveglieranno in primavera coi raggi caldi del sole, quando andrà via la nebbia da questi miei respiri, quando i mandorli e i ciliegi ritorneranno a fiorire. Tanto il freddo è alle porte e fuori soffia forte la tramontana, che cattura la mia mente con la sua voce, come un canto di sirene che giunge fino a me da una terra lontana. Ma al calar della sera ritornerà il silenzio. Potrò dormire.